Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Gianni, te lo dico con amicizia. Questo tuo riferimento esplicito al tema delle preferenze o delle primarie l'avrei voluto sentire dire quando, non solo tu, insieme ad altri, vi siete candidati senza passare dal passaggio delle primarie la volta scorsa. Perché se me lo dice Fassina, che prende 12.000 voti, è diverso che se non me lo dice anche uno di quelli in quota Renzi che è entrato con il listino. Questo è il luogo della verità e della franchezza? Si dica con chiarezza, così come Cuperlo ha avuto parole di chiarezza nei miei confronti, io gli ho parole di chiarezza nei suoi. Non è accettabile che il tema delle preferenze e delle primarie venga posto in questo modo strumentale adesso. Questo atteggiamento io non lo accetto adesso. Se volete, lo ponete in modo serio, non sulla base di un utilizzo strumentale. E questo poi, naturalmente, se Gianni vuole replicare, per correttezza, credo che sia giusto che lo faccia. Mi dispiace che Gianni vada, ma questo è un problema che riguarda lui. Ho detto, se vuole replicare, per me è a posto. Onorevole Civati, buongiorno. Ma era un'offesa così grave? Ma insomma, diciamo che il tono era molto aggressivo e forse un segretario potrebbe risparmiarsi di replicare con la stessa moneta. Però è sembrata una scelta meditata, no, preparata, più che uno scatto di nervi. No, era un fatto politico, cioè ecco, che Cooper non potesse fare il presidente e il capocorrente insieme era impossibile, lo sapevamo tutti. E perché ha accettato lui, secondo lei? Questo bisognerebbe chiederlo a lui. Io l'avevo sinceramente sconsigliato e non con malizia. Se si vuole interpretare un ruolo politico con un leader come Renzi, che è molto particolare, lo abbiamo ascoltato, lo si deve fare senza assumere una funzione di garanzia, anche perché sarebbe stato un problema anche per chi come me rappresenta quell'altra minoranza nel PD, certo, che magari è più critica ma con toni diversi rispetto, meno politicisti, perché in questi giorni veramente non si capisce più non nulla. Si capisce quasi niente, perché una cosa è sicura: nella tradizione del PC, PDS, DS, PD, le preferenze non ci sono mai state. Adesso diventano un fatto identitario, quasi di democrazia. Prima significavano corruzione, una bella confusione, eh? Ma infatti la strumentalità delle riflessioni è un po' da parte di tutti, si sono tutti preoccupati dell'incontro con Berlusconi senza notare che la legge praticamente l'ha scritta Verdini, che forse è una cosa più significativa dal punto di vista politico. Siamo tutti attenti alla battuta quotidiana, al gossip e un po' meno al risultato. Alla sostanza. A me non piace molto il risultato, ma non voglio, me l'ho già detto anche in direzione, non voglio bloccare il processo politico che Renzi ha avviato. Ecco, infatti lei si è astenuto, non ha votato contro, no? Esatto, mi sono astenuto perché da una parte riconosco l'accelerazione, il mandato delle primarie, avendovi partecipato e avendo vinto invece Renzi, quindi è un fatto politico assoluto per me. Però il risultato non mi piace e quindi invece di fare tante storie, di gridare allo scandalo, bisognerebbe capire quali sono i margini di intervento, se ci sono, e quali ma però lui, però Renzi ha detto che la sua non è una proposta alla carta, è prendere o lasciare, quindi mi sembra che i margini di cambiamento sono tanti. Quando si abbassa un po' il volume delle polemiche, si scopre per esempio che sulle soglie già si sta discutendo di qualche correzione. Che per esempio sul premio di maggioranza le preoccupazioni che ho espresso, che oggi Pellegrino riprende su Repubblica in prima pagina, un articolo che consiglio perché consente di capire molte cose, anche su quel premio ci sono delle cautele, delle perplessità. Però questo significa bisogna vedere che cosa vuol dire non essere alla carte per Renzi, perché potrebbe essere lui che dice vabbè, cambiate pure, fatevelo. Ma infatti però capisce che fare politica significa per me discutere con chi ha i voti, in questo caso Renzi, dentro il partito a maggior ragione e anche dentro il Parlamento, perché il PD ha una grande responsabilità, e nello stesso tempo cercare di capire se è un testo che non ci soddisfa, non per ragioni strumentali, perché guardi, io sono di Monza, con il Mattarellum, che è il mio sistema preferito, rischierei addirittura di non essere eletto. Sì, ok, io voglio stare sul merito politico, Civati. Questa chiarezza assoluta di linguaggio di Renzi, le piace o no? È un valore aggiunto nella palude del modo di parlare della politica? È un valore aggiunto quando non assume toni violenti, aggressivi, un po', come dire, muscolari, che a me non piacciono. Senta, e quando... dirò di più, però ci sono delle cose che mi piacciono di meno, se vogliamo fare un'analisi del linguaggio. Per esempio, la frase che a me non è piaciuta proprio è la profonda sintonia ripetuta più volte con Silvio Berlusconi. Se i 5 Stelle sono indisponibili a qualunque discorso, che cosa poteva fare? Perché poi dopo le parole stanno a zero a un certo punto. Sì, però uno può anche non evitarsi profonda sintonia, che dice. Vabbè. Detto questo, dopo che l'anti-berlusconismo è stata l'unica regola, l'unica bandiera politica della sinistra, forse fare un passo avanti è meglio. Tra l'anti-berlusconismo e il berlusconismo ci sarà una via di mezzo. Detto lo so, questo, però per adesso i voti li prende lui, e quindi quando li prenderà un altro. Siamo partiti da lì, però per dirla con parole altrettanto semplici. Poi le parole si possono usare anche diverse, non c'è dubbio. No, si possono usare diversamente anche perché hanno un significato politico. Insomma, un partito che per esempio fa della questione morale una ragione identitaria, su questo avrebbe dovuto fare una riflessione sulle modalità. Ma lei avrebbe trattato con Berlusconi o no? Ci arrivo. Io avrei fatto una proposta direttamente. Mi dica sì o no? Se io avrebbe no, trattato o no? Direttamente no. No, quindi no, lei, quindi a lei, anche lei si è vergognato dell'ingresso di Berlusconi nella sede del PD? Io non mi sono vergognato perché non mi sono sorpreso. Renzi aveva spiegato che era già vergognato prima, allora. No, è che è un modo di fare politica che è diverso dal mio, non per questo devo, come dire, abbatterlo. Quello che le stavo dicendo però è che il primo dato politico incredibile per me è che i grillini hanno sbagliato ancora, perché certo, non è possibile chiamarsi fuori sulla legge elettorale. Se no uno che cosa è la politica se non è almeno quello? Scusi, ci batti 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 sms, scusi se l'ho interrotto. Cooper l'ha detto, sono allarmato della concezione del partito di Renzi. Lei è allarmato? No, io sono combattivo eventualmente se non sono d'accordo, ma mi sembra che tutto questo, questa sceneggiata tra chi si dimette, adesso Fassina è tornato su posizione renziana addirittura, no? Dicendo, beh, ieri qui da noi ha detto proprio quello. Un po' di linearità e anche un po' di cautela, perché poi è appena iniziata questa storia, no? Quindi prendiamoci il tempo e anche il modo di ragionare. Però lei dice che c'è un'aria da resa dei conti molto brutta dentro il partito, perché non è che con Renzi, Bersani e D'Alema siano andati leggeri, diciamola tutta. Da quando si sono aperte le urne delle primarie con tutta la maggioranza del PD precedente, che ha fatto più o meno lo stesso risultato che ho fatto io, con poche risorse dal punto di vista politico, e con un Renzi che fa quasi 70%, capisce che questo era abbastanza inevitabile. Ecco. Dopodiché si può interpretare in modi seri oppure un po' grotteschi, come forse stiamo facendo. Senta, c'è Mario Seghe che vuole fare una domanda prima. Buongiorno Civati. Buongiorno. Nel 76, l'ho ricordato oggi sul Foglio, Enrico Berlinguer diede il via libera al monocolore DC di Giulio Andreotti, cioè del suo nemico più grande. Ma com'è che il PD può dimenticare la lezione di realismo di Berlinguer? Io lo trovo stupefacente. Molto interessante questo fatto. Beh sì, questo è stato un argomento utilizzato già con il governo Letta. Infatti la cosa surreale è che io non ero d'accordo già allora, ma ho trovato tante persone che adesso non sono d'accordo con l'asse con Berlusconi, che con Berlusconi volevano riformare la Costituzione. Ma allora è convenienza politica e basta, cioè è opportunismo. Abbia pazienza, ci va. Io ho preso bastonate per un anno perché avevo una posizione lineare che non ho cambiato. Come no, ma infatti noi l'abbiamo qui come interlocutore per questo. La cosa che mi sorprende è leggere appunto, guardi, vi dico un'altra cosa rispetto alla condanna, perché qualcuno dice adesso Berlusconi è condannato. Berlusconi è stato condannato all'inizio di agosto. La discussione sull'IMU l'abbiamo fatta dopo, e abbiamo seguito le sue indicazioni dopo che era stato condannato, e dal governo lui è uscito 3 mesi più tardi. Sì, quindi insomma è tutto strumentale, a seconda dell'ora e del giorno. Esatto, se facciamo così non si va da nessuna parte. Come al ridicolo. Al ridicolo. Civati, c'è Mario da Brescia, un secondo se lei resta con noi. Pronto? Sì, ecco, pronto. Dica rapidamente. Buongiorno. Civati, io sono un ex PC. Ex perché ero convinto. Poi con l'evento mi sono democratizzato. Però a quanto pare vedo che tu non sei ancora democratizzato. Vabbè, la domanda, per favore. La domanda è questa. Abbiamo eletto un segretario. Dobbiamo rispettare le idee. Ma è possibile che tutte le mattine che qualcuno si alza, non mi va bene quello che fa questo, non mi va bene quello che fa quello. Grazie. Grazie Mario. Beh, la voce del popolo. Io non so se non mi sono democratizzato, però stavo dicendo che avete vinto le primarie e più di così non so cosa devo fare. No, ma lei l'ha detto. No, secondo quello che colpisce. Possiamo, però posso dire una cosa che mi preme moltissimo. Dica. cerchiamo di mantenere un equilibrio tra la dialettica interna, il pluralismo minimo, no, di poter dire certo, quello che si pensa, e il rispetto dei ruoli. Io il ruolo di Renzi lo rispetto, se ci sono cose che non mi vanno bene, insomma, senza, come dire, massacrare il Partito Democratico, certo, che stanno facendo altri, esprimerà la sua opinione, altrimenti sto a casa. Senta, ma lei nuovo presidente del partito lo potrebbe fare? O lo vorrebbe, no, o sarebbe disponibile? No, io per la mia incolumità preferirei di no. In comunità però... ha paura che le spari, no? No, non lo so perché cosa può succedere, però in generale se lo consigliavo a Cupero lo consiglio anche a me stesso, chi vuole svolgere un ruolo politico. E allora mi faccia un nome di chi potrebbe essere. Ma guardi, se ne fanno di buoni. No. Perché me ne dica uno, non tanti. C'è l'ex segretario Epifani che però non so se accetterebbe, cioè qualcuno parlava... Ah, Epifani segretario di Civati, presidente da parte di Civati. No, beh, insomma, sono cose che sono... Vabbè, un'ipotesi. Io non ho una particolare... Guardi, la mia parte, se posso chiamarla così, delle primarie ha indicato Sandra Zampa, che non è una figura di corrente, certo, no, come vicepresidente. Quello deve essere lo stile. Una persona di Prodi, insomma. Prodiana. Sì, ma una persona che ha partecipato con me alla campagna delle primarie, ma non è civatiana, insomma, queste categorie... Ma qual è la caratteristica di un civatiano, mi scusi, che io volessi diventare civatiano, cosa devo essere? No, Minoli civatiano. Civatiano sarebbe una bella sorpresa. Civati ti ha arruolato! Con una sola intervista, vede la capacità di... Bravissimo! No, secondo me la cosa più importante, il tratto, è quello di un'alternanza tra destra e sinistra, ma sulla base di regole chiare, perché questa legge elettorale serve, cerchiamo di farla bene, questo è l'obiettivo che ho cercato, ho insistito fin dalla mozione Giachetti. Senti, Civati, le faccio... mi ricordo benissimo, e le faccio un'ultima domanda, perché siamo andati un po' lunghi. Ecco, ci vorrà un anno più o meno, nell'ipotesi che questo pacchetto di riforme di Renzi sia accettato, ci vorrà più o meno un anno per portarlo in porto. In questo tempo il governo sarà più forte? Il governo sarà, mi scusi, non ho sentito. Più forte? Potrà fare? Questo lo vedremo nelle prossime settimane, infatti non vorrei che tutte queste... È ora di farlo però, perché a forza di aspettare passa il tempo. La notizia di ieri, coperta da mille polemiche, è che anche Renzi in qualche modo ha aperto al rimpasto, dicendo che lo fa Letta e non lo fa lui. Ma questo si sapeva che era Letta, che lui non vuol dire sono io, ma insomma ci pensasse il Presidente del Consiglio col Presidente della Repubblica. Ridendo dico che lo chiameremo rimpasting, perché mi piace un po' l'inglese, ma alla fine lo faremo. Allora, faremming il rispasting. Esatto. Grazie Civati, auguri, grazie, buon lavoro. A voi, arrivederci. Grazie. Si devono vergognare! Si devono vergognare! Il nostro sindaco qua dice, lui non sapeva niente. Quello di San Ferdinando dice, non sapeva niente. Quello di Rosarno, non sapeva niente. Se oggi dovesse succedere un incidente, malauguratamente, noi non siamo assolutamente preparati, non abbiamo una struttura sanitaria idonea. Si apre la finestra, mi ritrovo il porto di Gioia, le navi, dentro la stanza da letto. Chi dice che abbiamo fatto delle operazioni del genere, o l'ha fatto lo sculo di tutti, non lo sapevamo, e si sceglie Gioia Tauro solo per smaltire il pattume del mondo. L'attività che si è fatta in Italia è solo un trasbordo di alcune cisterne che contengono sostanze chimiche tossiche. Queste cisterne arriveranno su una nave danese, poi messe in questa nave americana, e questa nave americana contiene una strumentazione per il trattamento di queste sostanze tossiche per renderle meno tossiche. Ecco, Renato Bellofiore, sindaco di Gioia Tauro, buongiorno. La situazione è in continua evoluzione perché non si sa ancora quando la nave danese con le armi chimiche siriane arriverà in porto. Ecco, ma se non ci sono rischi, come abbiamo sentito e dice il professor Ferruccio Trifirò, ma allora il problema dov'è? Intanto buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dov'è il problema? Io ritengo che alla luce anche dell'incontro avuto ieri, il problema esiste ed è molto concreto. Ecco, me lo dice, qual è in concreto? In concreto stiamo trattando e stiamo parlando di sostanze chimiche tossiche, come ricordavate voi, e si parla di armi letali. È chiaro che questa rilevanza mediatica non è dovuta al caso, ma è dovuta proprio all'attenzione che c'è da parte del mondo intero. Però lei ha sentito, scusi sindaco, ha sentito il professore emerito Trifirò, che è l'unico esperto italiano nel comitato scientifico dell'OPCA. Lui dice che problemi non ci sono perché le garanzie ci sono tutte. Voi che cos'è che temete allora in concreto? Perché allora, certo, in concreto, che sono armi tossiche, non c'è dubbio, ma se ci sono le garanzie... Le dico subito, io da sindaco, perché ognuno ha la propria. Certo, lei rappresenta il suo, la sua popolazione. Cosa chiedo io? Che secondo me, tranquillamente, senza arrivare a un braccio di ferro col governo, sì, io ho chiesto delle misure, e secondo me misure straordinarie di tutela della popolazione, che come sentivo anche dalle dichiarazioni, si ritrova a 100 metri, a 200 metri dal porto. Allora, prima cosa, rinforzare e rendere idonea la struttura sanitaria di Gioia Tauro. Prima cosa, con il personale sanitario adeguato. Cioè, perché lei ipotizza che ci siano dei guai. Ma è il mio dovere, farlo. No, nell'ipotesi in cui dovesse verificarsi, la cittadinanza è pronta, quindi non sminuire il fatto che tutto a posto. Ma il trasbordo, come abbiamo sentito, sarà direttamente dalla nave norvegese a quella americana. Sì, però quindi verrà fatta sempre tramite il rizzaggio, comunque con delle rizze verranno questi contenitori, verranno comunque agganciati e poi verranno sollevati. Vabbè, verranno in definitiva voi a Palazzo Chigi che cosa avete chiesto? Questo presidio sanitario rinforzato, cioè dei soldi, avete chiesto dei soldi sostanzialmente? No, assolutamente no, e ci tengo a chiarirlo, non siamo andati col cappello in mano, siamo andati con la schiena diritta a chiedere delle cose concrete. Vabbè, allora, il presidio sanitario, numero uno, presidio sanitario, numero due? Il personale adeguato. Seconda cosa che è importante è estendere il piano di evacuazione e di sicurezza anche alla popolazione e non lasciarlo soltanto limitato all'area portuale. Va bene. Penso che siano queste richieste qui siano da ieri sera che lei era effetto notte qui a Radio 24, che vi segue costantemente, ci sono ancora delle novità, qualcosa di nuovo da ieri sera, o quello che ha detto ieri, ha detto stamattina, è sufficiente? No, l'unica cosa è che c'è domani pomeriggio, ci sarà una riunione dei sindaci dove assumeremo altre decisioni. Mi dica che cosa pensate di decidere, me ne dica una. Tra le tante cose si pensava comunque di fare dei consigli comunali con delibere in contemporanea, dove ci saranno 33 comuni che delibereranno. Che chiederanno il presidio sanitario, quella roba lì? Ma penso che siano delle richieste alquanto... Ma io volevo capire che cosa, perché vorrei sempre essere concreto. Certo, io due cose concrete gliel'ho detto e poi avevo posto ieri. Perfetto. La problematica del governo. Quindi quello che chiedeva ieri è chiesa anche oggi. Va bene, ci risentiremo nei prossimi giorni. La ringrazio, auguri signor Sindaco, ma intanto, mentre per noi il problema di Gioia Tauro è in questi termini, quelli che abbiamo detto, a Montreux si apre il secondo tentativo di conferenza di pace sulla Siria. Dico tentativo perché il primo era fallito per l'assenza della Siria. Quando sono armati non si possono definire opposizione, ma terroristi. L'opposizione è un'entità politica, un programma politico, una visione politica. Se ci sono le armi, se si distrugge, si uccide, si commettono omicidi, non si tratta di opposizione. Questo è quello che tutto il mondo e tutti gli altri paesi definiscono terrorismo. E arriviamo a parlare dei colloqui di Ginevra 2. Pensa di andarci personalmente? Dipende dal contesto in cui si svolgeranno i colloqui di Ginevra. Quale tipo di situazione la convincerebbe ad andarci? Come ho detto, qualunque partito politico può prendere parte a quella conferenza, ma non possiamo discutere, ad esempio, con Al-Qaeda, le sue ramificazioni e le sue organizzazioni affiliate, con i terroristi. Non possiamo negoziare con coloro che chiedono un intervento straniero e un intervento militare in Siria. Beh, per esempio Qatar e Arabia Saudita? Vorrei essere franco con lei. Si tratta di stati satelliti. Il loro padrone sono gli Stati Uniti, lo sappiamo tutti. Dunque, se parteciperanno gli Stati Uniti, saranno loro il partner principale. Gli altri sono accessori. Era un'intervista realizzata con Assad da Monica Maggioni. Ecco, c'è un giornalista che ne sa forse più di tutti sulla Siria, Domenico Quirico, che saluto, che ne ha scritto tanto e soprattutto è stato sequestrato per 5 mesi. Ecco, che cosa ti aspetti tu, Domenico, da queste trattative, se ti aspetti qualcosa? Non mi aspetto molto, anzi, adesso è veramente sincero, non mi aspetto nulla. Ah, ecco, questo è interessante. Penso che ad essere pessimisti ci si azzecca spesso, ma insomma mi piace dover dire queste cose. Io sono molto pessimista sul futuro della Siria, nel senso che la Siria, in Siria, da 3 anni ormai, quasi 3 anni, scorre un tale fiume di sangue e di reciproche atti di barbarie degli uni e degli altri, degli uni contro gli altri. Si è scavato un tale solco di odio che francamente l'idea che i protagonisti, gli attori di questa tragedia, riescano, possano riunirsi attorno a un tavolo e e decidano una forma di convivenza mi sembra quasi metafisico. Anche perché questo sangue che scorre in Siria è un sangue talmente misto, possiamo dire così, cioè che non si capisce quasi neanche di più di chi è, perché di tanti diversi protagonisti. In Siria si combattono diverse guerre inscatolate l'una nell'altra. Ecco. La guerra principale che è quella ovviamente tra Bashar e i suoi oppositori, c'è la guerra tra gli alawiti e i sunniti, che è una guerra all'interno dell'Islam, c'è la guerra dei poveri contro i ricchi, attenzione, perché l'elemento di quella che una volta i marxisti chiamavano la lotta di classe è molto presente e spesso molto trascurata nella situazione siriana. Ci sono quelli che non hanno niente e che vogliono prendere tutto. E poi ci sono guerre per procura, le guerre dell'Iran contro l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti contro la Russia. Ecco, ma tu hai scritto una cosa che mi ha colpito molto: decenni di interessata e distratta convivenza con i tiranni ci hanno tolto ogni autorità morale, abbiamo stretto troppe mani per suggerire modelli. Ma che cosa vuol dire esattamente? Perché è tremenda questa valutazione finale moral politica. Vuol dire semplicemente una cosa, che noi è l'Occidente nella sua complessità, quindi l'Europa gli Stati Uniti. Hanno accettato per 10, 20, 30, 40 anni la presenza in alcuni di questi paesi, la Tunisia, l'Egitto, la Libia, la Siria, lo Yemen, di losche figure di satrapi con cui abbiamo intessuto affari che ci convenivano. E quindi non siamo più credibili. E quindi non possiamo dire di essere quello che diciamo di essere, cioè il nostro modello, la democrazia, i diritti umani. È una scatola vuota in questo momento. È una scatola vuota o è comunque propagandata da gente che non ha l'autorità morale per dirlo, perché ha fatto il contrario di quello che doveva fare. Certo, ma tutti quei giorni di prigionia a te ti hanno fatto cambiare, cioè sei andato lì con delle idee e poi le hai cambiate completamente? Parte sì, parte no. Nel senso che io ho amato non la rivoluzione siriana, che non è una mia storia, è una mia rivoluzione, io non sono siriano. Certo. Ho amato i rivoluzionari siriani, quelli di 3 anni fa, che erano dei ragazzi innocenti e coraggiosi che si battevano per cambiare il loro futuro e il loro paese. E poi cosa hai scoperto? Quei rivoluzionari non ci sono più e ho scoperto che al loro posto ci sono altri, che sono i jihadisti e che sono dei comuni banditi che approfittano della rivoluzione, il cui scopi non sono più far cadere il regime degli Assad, che è il problema o il problema iniziale che ha determinato tutta questa storia, ma sono la creazione di uno Stato islamico, riempirsi le tasche di denaro. E quindi la Fallaci vedeva un pericolo che adesso vedi anche tu? La Fallaci si riferiva all'epoca degli attentati delle due torri dell'11 settembre, molta acqua è passata sotto i fiumi da quell'epoca, direi che il pericolo, anzi l'ipotesi storico-politica che la Fallaci indicava, cioè l'emergere di un Islam violento, aggressivo e guerriero, si è ancor più allargata, nel senso che non siamo più di fronte ad un problema di terrorismo, che è un problema di polizia, certo, ma siamo di fronte ad un problema della volontà di creare uno Stato islamico, Domenico, non soltanto in un paese, ma in vasta parte di quello che era le terre dell'Islam. Ecco, Domenico, ti prego di aspettarmi al telefono un momento, che devo dare un attimo di pubblicità e poi ti voglio fare ancora due domande proprio personali. Grazie. Mix 24. Domenico, grazie di averci aspettato. Domenico Quirico, in collegamento dalla Tunisia. Ecco, lì è stata approvata la nuova Costituzione che equipara... È stata proposta, hai ragione, perché c'è il governo di transizione. La nuova Costituzione che equipara i diritti uomini e donne e soprattutto forse anche cancella il reato di apostasia. Tu, diciamo, come la vedi? Hai detto una Costituzione di carta, cioè non ci credi? Sarei un po' più cauto, dopo essere stato qua sono un po' più cauto di quando... di quando non ero qui, nel senso che la partita è ancora tutta da giocare, molto aperta, nel senso che io dico sono costituzioni di carta, perché le costituzioni sono pezzi di carta, naturalmente, e bisogna riempirli poi di cose e di buona volontà, insomma. Non bisogna illudersi come abbiamo fatto per le primavere arabe, ecco. Ma io credo che le primavere arabe siano state delle vere rivoluzioni, parlo di Tunisia, Egitto e anche la Siria iniziale, la Libia è un altro discorso. Le rivoluzioni non hanno mai un percorso rettilineo, certo. Le rivoluzioni viaggiano secondo una loro logica interna che spesso neppure noi, neppure i protagonisti sono in grado di, come dire, di controllare, però insegnano ai popoli che ci si può rimpadronire del proprio destino. E poi dopo l'esito è incerto. C'è Mario Secchi che ti vuole fare una domanda, Domenico. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Io penso che la Russia sarà decisiva in questo frangente e anche in futuro. Sei d'accordo? Io credo che le chiavi della situazione siriana sono a Mosca e in nessun altro paese. Cioè, nel senso che per la Russia di Putin la Siria è non un problema di politica estera, è un problema di politica interna. Nel senso che la carriera politica di Putin è legata alla promessa della restaurazione della potenza globale, esatto, della Russia. Ecco. E quindi, se si ritira dalla Siria, questa sua promessa e questo suo progetto fallisce. Politico adesso, che è l'ultimo addentellato di quella potenza dell'Unione Sovietica, e dunque non può mollare la Siria. Domenico, ti voglio fare un'ultimissima domanda personale. Io mi ricordo una bellissima intervista che hai fatto con Amedeo Ricucci del TG1, anche lui è rimasto prigioniero una decina di giorni in Siria. Ecco, tu hai parlato del senso di colpa profondo che hai sentito nei confronti della tua famiglia durante quei cinque mesi. È così? Che faccio questo mestiere ahimè da molti anni, e forse per distrazione, forse per vanità, forse per egoismo professionale non mi ero mai accorto che andavo a raccontare il dolore degli altri e automaticamente nel farlo creavo dolore alle persone che mi erano più vicino, angoscia, attesa, paura, e senza neppure la soddisfazione egoistica poi di scrivere un pezzo sul giornale. Però adesso sei di nuovo in Tunisia, è ricominciato, insomma. E questo è un problema che con la mia famiglia non ho ancora completamente risolto. Va bene. Non ho ancora completamente risolto. Allora grazie, auguri, tanti auguri. Grazie. Ecco, per capire che cosa significa Ginevra 2, dal punto di vista strategico e militare, Germana Tappero-Merlo, esperta di sicurezza internazionale e di intelligence. L'intelligence occidentale ha fonti proprie oppure si appoggia sempre di più ai servizi di Assad e di Putin, che mi sembra che siano sempre più legati? Sembrerebbe appunto che ci sia questa collaborazione, anche perché l'eccessivo utilizzo di strumenti elettronici tipo i droni, di cui abbiamo parlato più volte, pare che non sia più così sufficiente per individuare, per esempio. Poco, anche c'è poco lavoro sul campo. Poco insomma, lavoro sul campo. Persone che sanno l'arabo proprio, diciamo, infatti, per capirci. Ecco. Ma le armi chimiche che Assad sta mandando, quelle che stanno navigando verso il porto di Gioia Tauro, ecco, almeno quelle armi chimiche sono tutte partite dalla Siria o no? Ma le armi chimiche di Assad sembra che vi siano ancora, secondo fonti di intelligence occidentali e israeliane, ancora una decina di siti non smantellati, non dati da Assad. Di conseguenza ci sarebbe ancora questo rischio, che è stato un po' il rischio che c'è stato in Libia, che sono stati trovati appunto due siti e tra l'altro in una delle zone più delicate, che è il sud-est del paese. Quindi ecco, ma questo rischio... Mediterraneo è pieno, passa di tutto da sto passa Mediterraneo. Passa di tutto, non è un caso che è strategico. Ma esattamente come si individuano i siti delle armi chimiche? Necessariamente c'è bisogno della intelligence sul campo, ecco che quindi è quello che manca, quella che manca, infatti, cioè, perché troppo nel cielo e troppo poca per terra. I droni non sono assolutamente in grado di individuare, che sono depositi di bidoni, quindi non è così facile individuare. Quindi bisogna sapere dove andare, è qualcuno che te lo dica e soprattutto è capire quella. La quindi, lingua nella quale te lo dicono, e quindi ecco la collaborazione ed ecco perché Putin e Assad sono più forti di tutti lì. Infatti. Ma chi ha ancora armi chimiche oggi? Ma le armi chimiche al momento sono in mano all'Angola, al Myanmar, all'Egitto, Israele e Sud Sudan, ma soprattutto la Corea del Nord. La Corea del Nord ha una capacità incredibile, 5.000 tonnellate di armi già pronte all'uso, una capacità di armi chimiche. Sì, di 4.500 tonnellate la capacità riproduttiva all'anno. Quindi Seul è una delle città più a rischio in assoluto per un attacco chimico. E quindi è questo il paese che bisogna temere di più, bisogna temere. Ma a quanto pare sì, la Corea del Nord. Ma attenzione, anche l'Egitto ha delle armi chimiche, quindi in questi paesi, come anche Israele, ma l'Egitto, dove la situazione comunque non è ancora definita, chiara. Beh, pensi, per esempio, però. Si sta definendo, però viene sempre tralasciato, per esempio, la sicurezza del Sinai. Ecco, nell'eventualità di una situazione che vada deteriorando, ecco, attenzione, perché l'Egitto ha armi chimiche comunque. Grazie. È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un bel salto, Mario, perché questa canzone? È perché la travagli della politica italiana, la tragica situazione in Siria. E ragazzi, però il mondo è anche un po' meraviglioso, come canta Domenico Modugno. È meraviglioso. Ricordatevi sempre che il mondo e la vita sono belli e da vivere, anche quando le cose vanno male. Bravo Mario. È così. Bravo Mario. Allora, facciamo un po' di bolle. Stai diventando il nostro Don Matteo. Vai. Di Matteo ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Allora, cerchiamo di capire com'è la realtà quotidiana, cercando di dare un po' di nostre bolle. Ispanico c'è? Ispanico. Ma non c'è più, perché si chiamerà Italicum. Allora, oggi alle 14 dovrebbe essere presentata alla Camera il testo della riforma elettorale. Sì, infatti. Le simulazioni si sprecano. Per farla breve e far capire ai nostri ascoltatori, qualcosa si riduce il numero dei partiti, sì. Si sostanzialmente, diciamo, si prende atto che ci sono tre blocchi in Italia, 340 seggi al PD, 183 seggi a Forza Italia, secondo gli ultimi sondaggi fatto l'altro ieri da Ipsos, e i 5 Stelle 108 seggi. La domanda che uno si fa è: perché c'è questo scarto? Perché c'è il premio di maggioranza. Adesso c'è la viabilità e dopo andiamo avanti. Mix 24. Je ne t'aime plus tous les jours. Vabbè, canti grande anche, Manuccia. Adesso, beh, ogni tanto, dai, perché no? No, figurati. Canta Travaglio, lo possiamo cantare noi minori. No, sta, io scuola? Non canto, vai tu pure. Allora, Premier Dame e First Lady, alla signora Valérie, purtroppo quando si è arrabbiata con Hollande, pare, forse, sembra che abbia combinato un pasticcione all'Eliseo, del tipo che ha spaccato orologi, cose. Qualcuno dice anche che ha stimato danni per 3 milioni, sarà vero? Beh, io non accidente. Lo so, lo riporto, ma non ci credo tanto. E poi, dai, chi non l'avrebbe fatto al suo posto? Dicono anche che sia disposta a perdonare, chissà, ma... C'è anche un altro particolare, che lui forse non la vuole, quindi che perdoni a fare. Cioè, tutto il contrario della grande, invece, First Lady americana. Michelle, cinquantenne, tonica, ha festeggiato con Obama, si sono baciati in pubblico, non è vero che la coppia è in crisi, e poi lei alla grande era con i giocatori dell'NBA. Altro che i viaggi in motorino. Quelle sono grandi campioni, grandi. Niente ospedale, si va a canestro. E poi? I keep a close watch on this heart of mine. Avete sbagliato tutto in regia. E va bene che devo parlare di cash, ma non è Johnny. È il cash della Apple, la liquidità. Sai quant'è, Giovanni? Quant'è la liquidità dell'Apple? 150 miliardi di dollari. È il 10% della liquidità di tutte le aziende americane. Pazzesco. In mano. Sì, è una cosa incredibile. È un surplus di cassa gigantesco. E stanno crescendo le pressioni per dividere con gli azionisti, fare investimenti, insomma è un problema. Usarli in qualche modo? Usarli, anche perché Apple poi, tu sai, ha costruito questa cassa anche un po' eludendo legalmente il fisco americano e non solo. Non solo quello americano. È tutto legale, per carità, però insomma, non lo so, siamo sempre sui soldi, ma... Grande Renato Zero, la ricchezza come stile di vita, sì, la ricchezza come status, sì, e allora si apre il forum di Davos questa settimana. Io continuo a dare i numeri che secondo me ci devono fare riflettere in questi giorni del forum. Uno studio UBS dice che le 300 persone più ricche del mondo posseggono la bellezza di 3,6 trilioni di dollari, questo alla chiusura del mercato di ieri. L'anno scorso la loro ricchezza netta è salita di 524 miliardi di dollari. Io non sono un pauperista, non penso che il mercato sia il diavolo, però signori, noi c'è qualcosa che non va. A Davos comunque c'è il nostro amico Corrado Passera che dovrebbe tornare di lì con 300 miliardi per risanare l'Italia. Sì. Noi lo aspettiamo perché per la fine di gennaio, intanto continua a scriverci Enrico dalla Grecia e parla dell'Italicum come strumento di scissioni, anche Berlusconi aveva la maggioranza. Beh, vi aggiorno, Vendola per ha detto no, ha detto no, esatto. Non lo voto e così via. Continuiamo con un po' di disordine finanziario. Sì. Carmina Burana, perché? Perché? Perché è il santo disordine finanziario. Allora, i conti dello IOR, sapete tutti, ci sono stati dei problemi, Monsignor Scarano è stato arrestato due volte, in Germania il Papa nell'ottobre scorso ha dovuto allontanare il Vescovo Spendaccione di Limburg. Facendo pulizia veramente, sì, nella Chiesa. Sì, sì, assolutamente. A Maribor, in Slovenia, si sono messi un po' nei guai con gli investimenti nella diocesi e adesso fanno le preghiere per il cosiddetto bailout, salvataggio del paese. Ce ne ha da lavorare anche povero, di Francesco. Povero Papa. Ha sollevato il coperchio. Tu hai brindato a Natale? Io a Natale... Senti, hai brindato? Hai brindato? Brindiamo, perché... Allora, questa è bellissima. Festa, ve la racconto, festa a Palazzo Isimbardi, sede della provincia di Milano. L'assessore al personale, Roberto Cassago, stappa una bottiglia di spumante. Stappa. E il tappo schizza in aria come un missile. E che fa? Buca una preziosa tela del Settecento che raffigura le imprese del marchese Isimbardi. Il buco è stato rattoppato in maniera professionale con lo scotch in attesa del restauro. Conclusione? La fortuna è cieca, ragazzi, ma la sfiga ci vede benissimo. Settant'anni di sbarco ad Anzio, Giovanni. E che succede? Che finiamo sulla prima pagina del New York Times. Splendido pezzo di Elisabetta Povoledo. Perché né Anzio e Nettuno non si mettono d'accordo per la prima volta sulla celebrazione. Quindi faranno di fatto due celebrazioni separate. Siamo riusciti a dividerci anche su questo. Su tutto. E intanto vediamo su che cosa ha visto, dove, anzi meglio, ha visto il canone ieri sera il professor Giorgio Simonelli, che se non sbaglio sta sulla Salerno-Reggio Calabria in coda. Sì. O sta andando? No, sto andando, se avete bisogno di un aiuto sulla viabilità ve lo posso dare oggi. Un buon suggerimento. E dov'era il canone ieri sera, professor Simonelli? Ancora una volta su Rai 5. Oramai sembra il nostro canale, però ieri D'Alessandro, Pasquale D'Alessandro, abbiamo qualcuno che deve essere assunto qua. Sì, sì. Contratti. Un po' di contratti. La pecora nera di Ascanio Celestino, un grande attore drammaturgo. Bravissimo. Film passato a Venezia 3 anni fa e approdato in televisione, un interessante perché è un film civile, come era nella tradizione di Ascanio Celestini, ma anche un film molto godibile come plot narrativo, come racconto, un po' giallo, persino con qualche sfumatura di thriller alla fine. Devo dire che la cosa interessante è che poi a seguire questo film, Rai 5 inaugura questa trama, ci sono dei corti. Ieri sera c'era niente poco di meno che Rainer Werner Binder. Quindi insomma il cinema sta tornando. Sta tornando bene, in modo intelligente e ben programmato. Ma professore, intanto, chi ha ricordato meglio il maestro Abbado secondo lei? Ecco, stavo proprio per parlare di questo, senza mettere il canone, è presso chi ha meglio celebrato. E questa volta è Fazio, perché cioè, mi sembra che la sera stessa del giorno in cui è mancato. Bravo Fazio. Guardate, non da quei 20 minuti. Guardi, possiamo dire bravo Fazio perché non c'è buttafuoco, sì. Purtroppo ancora assente per ragioni familiari, quindi possiamo dire tranquillamente bravo Fazio. Io faccio la parte di Pietrangelo, no. Approfittiamo dell'assenza di buttafuoco, approfittiamo. Bravo Fazio perché senza aggiungere nulla ha mandato in onda integralmente un pezzo straordinario in cui Abbado dirigeva l'orchestra, studi della RAI, e Barenboim suonava il pianoforte. Sulla retorica, senza le parole di circostanza che purtroppo sono sempre fuori luogo quando c'è un lutto, e un momento di grande televisione, perché insomma Abbado e Barenboim insieme in uno studio televisivo non è cosa da tutti i giorni, poco. E credo che, però anche ieri sera anche Rai 3 ha rimandato il Simon Boccanegra del Maggio Musicale Fiorentino diretto da Abbado. Vabbè, quindi la televisione si è comportata bene, la RAI si è comportata bene. Allora professore, io le auguro un buon viaggio. Intanto ricordo che la notizia in 3D è stata curata come sempre da Sara Tardelli. Tu dove l'hai visto, caro? Ieri sera naturalmente non l'hai visto perché non guardavo la televisione ieri sera. Stavi leggendo Machiavelli. Un'amabile cena tra persone, devo dire, intelligenti. Che non guardano dalla televisione. La guardano e ne discutono, però on demand. Oggi raccontiamo come è nata una trasmissione cult della radio, una trasmissione famosissima, tutto il calcio minuto per minuto. A seguire un'intervista al grande campione Marco Tardelli, a cura di Marina Milone.